veloce, non importa se pioverà, non occorre fortuna, sa che ogni goccia è sincera e come scende passerà. Sentire la voce.